tante notti da ragazzo m'addormentavo sopra il tetto e sognavo di andare. M'arrampicavo ad orso nudo sui cornicioni del collegio per sentire il vento. Un pensiero come un tarlo la mia mente divorava, città e immagini passavano. Furbo e bugiardo fin da bambino, non dormivo la notte per aspettare il mattino. Andare senza meta e vagare per i paesi e le città. Sognare ad occhi aperti anche per voi, così incontrai la musica per non lasciarla mai. E questa sì che è libertà. Quanti volti scoloriti, quanti giorni spettinati, vivo così senza rimpianti. Angeli e demoni nascosti tra le note, da usare come un dio indifferentemente. Quante notti ho rubato per le strade tra la gente, illusioni e sofferenze. Vento nel vento voglio essere io, senza confini e pareti.